Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sole un po' timidino oggi a Milano, ma sono fiduciosa, la temperatura per fortuna è mite, d'altronde la primavera è così, imprevedibile, un po' bizzarra, ma è una stagione meravigliosa che è sbocciata in questi giorni con i suoi colori che aggiungono sicuramente un po' di allegria alle nostre giornate, e quindi affrontiamo questi giorni un po' più rincuorati. Ma a proposito di stagioni, decine di malattie crescono e calano con le stagioni. Cosa farà Covid-19? Giro la domanda oggi, con grande piacere tornata a trovarci, al professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara e autore di un libro di cui abbiamo parlato molto, Un tempo per ogni cosa, PM Editore. Professor Manfredini, buongiorno, che bello sentirla. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Professor Manfredini, stagioni e malattie, un binomio antico. È vero, l'importanza delle stagioni in medicina è nota fin dai tempi antichi. Se pensiamo che già Ippocrate, quindi che viveva nel 400 prima di Cristo, scriveva una frase molto importante nel suo trattato: chiunque voglia studiare in modo appropriato la medicina, in primo luogo dovrebbe considerare le stagioni dell'anno e quali effetti produce, visto che non sono tutti uguali, anzi hanno molte differenze fra loro e i loro cambiamenti. Quindi già un concetto basilare che la medicina in alcune stagioni potesse avere un impatto, per esempio in base al clima, alla meteorologia, alle sostanze nelle acque e quant'altro. E non si conoscevano i virus all'epoca. Assolutamente. Ma professor Manfredini, perché gli studi sui ritmi stagionali sono molto meno numerosi di quelli sui ritmi di un giorno, quelli circadiani? È vero, è proprio così, perché mentre, specialmente per l'uomo, perché per l'uomo è molto più facile indagare un ritmo circadiano che non uno stagionale. Sull'animale, tutto sommato, ha una vita scandita. Gli studi sulle stagioni intanto sono lunghi, perché devono essere almeno 2 o 3 anni, altrimenti non ha senso. E poi hanno molti fattori confondenti, perché per esempio per l'attività umana tanti piccoli fattori possono essere stagionali. C'era una famosa frase dell'epidemiologo che è a capo del settore vaccini della fondazione Bill e Melinda Gates, che diceva che anche lo shopping di Natale è stagionale, quindi potrebbe dare dei bias. Quindi sono più lunghi e più difficili. Professore, ma sappiamo qualcosa sulla variabilità stagionale dei virus? Allora, ecco, premetto che ho delle amiche bravissime, care amiche bravissime, sono virologhe, non vorrei giocarmi la loro amicizia o farmi fucilare, quindi trattiamo l'argomento dal punto di vista così un po' delle... No, la difendiamo noi. Grazie, diciamo per quello che riguarda la stagionalità. Sicuramente ci sono delle importanti stagionalità anche per le malattie virali, ricordando sempre che la relazione fra patogeno, ambiente e singolo individuo sono molto importanti, per cui non so, d'inverno stare tutti più vicini, temperatura, contatto stretto può favorire alcuni aspetti. Alcuni virus hanno un andamento particolare, non so, il virus respiratorio sinciziale, quello della goccia al naso che può dare anche la bronchite o la febbre nei bimbi, è invernale, la varicella primaverile, l'herpes zoster d'estate, la pertosse giugno-ottobre, e poi per esempio si è visto che l'epatite C in alcuni paesi del mondo, non so, in India è in inverno e in Egitto è in primavera-estate. Dobbiamo ricordare che ci sono anche delle malattie virali trasmesse da insetti e quindi le stagioni variano anche in base agli insetti. Poi alcuni virus hanno, oltre al loro nucleino interno, quello che li protegge, che si chiama capside, hanno anche una specie di involucro esterno fatto di grassi, di lipidi, e chi ha questo rivestimento esterno, questa corazzetta, insomma, questa specie di corazzetta che è fatta di grassi, che magari però quando c'è caldo questa corazzetta viene meno, li rende un pochino più fragili, e allora questi virus magari sono più frequenti a un andamento stagionale perché sono di più d'inverno che non d'estate. Ecco, quindi ci sono molte molte variabili. Ma professor Manfredini, una volta avevamo fatto un riferimento a studi che avrebbero mostrato come il nostro sistema immunitario possa esprimere un andamento ritmico, ricordo bene? No, ricorda benissimo, perché è un lavoro uscito recentemente di un gruppo, ad opera di un gruppo inglese, che avevano dimostrato come i soggetti che ricevevano il vaccino antinfluenzale alla mattina anziché al pomeriggio, sviluppavano un tasso di anticorpi molto maggiore su non tutti, ma la maggior parte dei ceppi testati. Quindi il sistema immunitario sembra che abbia delle variazioni, si sa per esempio per gli animali, si sa su studi genetici che su oltre alcune migliaia di geni della risposta immune c'è una differenza stagionale. Adesso è in corso uno studio inglese lungo ma molto interessante, dove dei volontari sani vengono chiusi in stanze particolari, gli fanno prelievi, misurano ormoni, il microbioma fecale, insomma ad intervalli stagionali precisi e tutti i parametri dell'immunità, per cercare di capire se in uno sano, mantenuto in ambiente costante, il sistema immunitario varia. Secondo me, io azzardo, professor Manfredini, mi dica lei come la pensa, noi siamo un po' come gli uccelli migratori, abbiamo un sistema immunitario più sud'estate, secondo lei? Dunque, non lo possiamo dire. Beh, gli uccelli migratori varia per il fatto che loro il down ce l'hanno quando migrano. Certo. Perché consumano la maggior parte delle loro energie. Quindi, però mi piacerebbe che noi ce l'avessimo anche molto alto d'estate, visto che sta arrivando l'estate. Sì. Bravo, proprio lì per vedere il positivo. Ma professore, si può fare una previsione sulla durata di questo virus COV2? Non si può fare, non lo fanno gli esperti super. Tutto quello che posso dire è che, siccome si sentono appunto delle notizie che il più delle volte sono fake news, per esempio basta stare al sole che uccidiamo il virus, se questo virus SARS-CoV-2 ha quella famosa corazzetta esterna, quindi teoricamente potrebbe essere un pochino più fragile, ma è la prima volta al mondo che lo conosciamo, e quindi prima di cantare vittorie e dire solamente che il sole uccide il virus, insomma stiamo tutti molto cauti. Professor Manfredini, io la ringrazio, le auguro una buonissima giornata, spero di sentirla presto. Anche a voi, buonissima giornata e che tutto vada a finire bene presto. Assolutamente, ce la possiamo fare tutti insieme. Allora, se al momento non si possono ancora fare delle previsioni sulla durata del virus responsabile del Covid-19, dalla ricerca che è impegnata a raccogliere informazioni e dati sul comportamento del virus arrivano buone notizie. Un gruppo di scienziati americani e italiani guidati da Robert Gallo ha dimostrato che il virus del Covid-19, partito dalla Cina, nei mesi è mutato e diventato più contagioso e infettante una volta arrivati in Europa e in Nord America. E allora tutto questo ce lo facciamo raccontare direttamente dal professor Massimo Ciccozzi. Buongiorno professor Ciccozzi. Buongiorno a voi. Epidemiologo molecolare, direttore dell'unità di statistica medica ed epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma, che è tra i ricercatori italiani che hanno partecipato a questo studio proprio guidati da Gallo. Professor Ciccozzi, il COV2 in Nord America e in Europa, mi passi il termine, è più cattivo che in Asia. Perché? E soprattutto come avete fatto a scoprirlo? Allora, diciamo che non è più cattivo, perché se diciamo più cattivo poi la cattiveria si associa con la mortalità e non è così. No, ecco. Diciamo che è più contagioso, fa un po' più di contagi, infetta di più, ma mettiamola così. E questa mutazione che noi abbiamo scoperto sulla polimerasi è una mutazione molto interessante, perché quasi moltissimi ceppi europei hanno questa mutazione, pochissimi, ma ce l'hanno i nordamericani, non ce l'hanno assolutamente gli asiatici. Ecco, questo ha un risvolto molto importante per la terapia, perché se io ho una terapia, un antivirale mirato su questa proteina, che è la polimerasi, tra l'altro, che al virus serve proprio per replicare se stesso, ecco, io in Asia funziona. In Nord America potrebbe funzionare, ma potrebbe anche non funzionare. In Europa ha scarsa possibilità di funzionare, se diretta su questa polimerasi. Certo, quindi il vostro studio aggiunge un tassello importante alla conoscenza del comportamento del virus, ma anche la creazione di un vaccino. No, diciamo che sulla creazione del vaccino la polimerasi non ci dice niente. Nel senso che si va a cercare il pezzetto dell'RNA virale che non cambia mai, e tra l'altro credo che siano concentrati sulla spike protein, perché È vero che ha fatto una mutazione per il salto di specie, ma l'ha fatta una sola in un pezzetto di questa proteina. Sulle altre parti non ha mutato, quindi magari vanno a cercare quegli epitopi, quei pezzettini che non sono mai cambiati e lì vanno a fare il vaccino. Questa scoperta, diciamo tra virgolette, che abbiamo fatto è molto più per la terapia che non per il vaccino. Il vaccino si fa su altre zone che non è questa, insomma. Ecco, e così in questo modo abbiamo così risposto ai dubbi, perché tutte le volte che noi leggiamo, sentiamo parlare di mutazione, arrivano, ecco, se il virus muta non riusciranno mai a fare un vaccino. Sono due strade diverse, professor Ciccozzi, ci spiega bene? Eh sì, perché io vado a cercare quello che non muta per fare il vaccino. Bravo. Quello c'è. Ce n'è parecchio. Professore, ci potrebbe... Mi dica. Sì, mi dica. No, mi dica. Allora, io adesso mi devo fermare perché devo dare le informazioni sul traffico, ma subito dopo volevo chiederle, intanto glielo anticipo, se ci potrebbe essere una relazione tra quanto avete scoperto e il numero di casi che in alcune città, parlo di Milano ad esempio, tende a scendere più lentamente. Noi ci fermiamo, il professor Ciccozzi resta con noi, a tra pochissimo. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Obiettivo salute. Siamo ritornati a Obiettivo Salute insieme a voi, insieme a noi oggi il professor Ciccozzi, con cui stiamo commentando i risultati di uno studio effettuato da un gruppo di scienziati americani e italiani, guidato da Robert Gallo, che ha dimostrato che il virus del Covid-19, partito dalla Cina, nei mesi è mutato, è diventato più contagioso e infettante una volta arrivato in Europa e Nord America. Professore, quindi non dobbiamo dire più cattivo, più contagioso e infettante. Ma professore, questo potrebbe spiegare in qualche modo il numero dei casi che in alcune città tende a scendere più lentamente? O non c'entra nulla? Allora, ha visto come gli viene bene, più infettante e non cattivo? Ah, con la sì, voce certo, ci ha dato però... una spiegazione stupenda. Allora, il virus sta frenando. Il fatto che in alcune città freni di più, diciamo infetti di meno, e in altre infetti di più, è diciamo sulla garanzia di aver osservato queste norme di distanza sociale, queste norme che sono mesi, diciamo un mese fa, di restrizione abbastanza importante, che noi stiamo tutti osservando, quindi le mascherine, la distanza, lavarsi le mani. Ecco, magari ci sono posti in cui c'è già una distanza perché c'è meno addensamento di popolazione e in altri ce n'è un po' di più. Certo. Può essere addirittura nessuno fa caso alla residenza per anziani. Le residenze per anziani sono sparse un po' in tutta Italia e nelle residenze per anziani ci sono le persone che si possono contagiare facilmente perché, come lei ben sa, può accadere che se una sola persona va ad infettare una residenza per anziani può amplificare questa infezione. Quindi, insomma, le ragioni sono tante, ma la cosa che molto ci l'inquinamento, fa ben vedere... Scusi, professore, mi è venuta una domandina che adesso lei mi cassa. So. Ma, allora... io lo so allora, che lei si faccia la domanda e si dia la risposta. Allora, è multifattoriale questa storia. Può essere sì, ma insomma, non... io vedo molto di più che nel periodo estivo... una temperatura che si alza e sta in un certo range potrebbe disturbare un pochino questa infettività del virus. Teniamo conto che le distanze vengono tenute maggiormente, perché fa caldo, perché la gente tende meno ad abbracciarsi, tende meno a stare come dire, unita in qualche modo. Insomma, se, torno a ripetere, io dico sempre, ma se lei va a luglio a mangiarsi una pizza, là il tavolo lo vuole di fuori, non lo vuole dentro, lo cerca fuori. Certo. E questo è già un indicatore. E il fatto che cosa ci fa ben sperare è che questa frenata del virus cioè, esiste, si vede dalle curve che stanno cominciando a scendere. Purtroppo ci sono i decessi, però occhio, torno a ripetere, questi decessi sono dei decessi dovuti a tanta infettività precedente che poi noi vediamo nell'arco di un periodo di tempo che le persone purtroppo vanno incontro a morte. Non dimentichiamo che abbiamo avuto e abbiamo e si sta risolvendo nel Lazio, per esempio, si stanno prendendo molte misure precauzionali. Parlo del Lazio perché ci vivo e più o meno vedo le cose. Certo. Sulle residenze per anziani, una domanda che mi è stata fatta dice: ma perché in Cina queste cose non ci sono state? Perché io vado a vedere la curva di mortalità nella Cina e quella italiana, quella della Cina è molto più con meno casi eccetera, ma è perché sì. Le residenze per anziani in Cina non esistono, la persona anziana vive nella famiglia, non c'ha un posto dove si va a mettere insieme ad altri, è una filosofia diversa di vita, quindi diversa. Probabilmente là, esatto, c'è stata un'autoprotezione diciamo a livello di mentalità, tutto qui insomma, no, non è cambiato nulla. Professore, però la cosa importante è che il virus sta frenando, questo lo vediamo. Dai, questa è una buona cosa, ma e speriamo che lo faccia un po' in modo anche, insomma, coinvolga anche queste regioni, questi luoghi in cui al momento non, i dati non sono quelli che ci aspettavamo. Professor Ciccozzi, lei ormai è di casa, questo sicuramente mi fa molto piacere, quindi le chiederei di lasciarci come sempre un consiglio, un augurio, una raccomandazione. Prima di salutarci, per darci appuntamento alla prossima, come si dice. Allora, sì, le posso fare un'analogia che mi è venuta bene un'altra volta, quindi la voglio ripetere. Bene, dai. All'inizio di questa epidemia, noi eravamo l'incudine e il virus era il martello. Adesso si sta capovolgendo, siamo noi il martello e il virus è diventato l'incudine. Gli stiamo dando giù, gli stiamo menando e anche bene. Quindi andiamo avanti, non molliamo. Mi piace. Grazie professor Ciccozzi, le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buona giornata. E allora, torni presto, perché questa è un po' una casa, Obiettivo Salute insieme a voi, e insomma, a proposito di casa, per rendere meno faticoso il nostro isolamento possiamo sfruttare, probabilmente molti di noi lo stanno facendo, balconi, balconcini, terrazzi e per i più fortunati anche il giardino. Bastano pochi minuti, proprio giusto il tempo per prendere una boccata d'aria, ma come sappiamo possiamo anche approfittare di questo tempo all'aria aperta per sintetizzare un po' di vitamina D, per ricaricare un po' le batterie del nostro umore, perché no, anche per cancellare quel grigiore dell'inverno. Allora, ad aiutarci, a insegnarci, a prendere, come si dice, dal sole tutto il buono e il bello che sa darci, in linea con noi abbiamo la dottoressa Elisabetta Fulgione, che è dermatologa dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Dottoressa, ciao, Fulgione, Nicoletta. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dottoressa, noi siamo pronti, partiamo, anzi usciamo in balcone. Sì, e se non possiamo uscire fuori al balcone, affacciamoci almeno alla finestra, così facciamo una bella scorta di sole e di buon umore. Allora, direi, io ho sentito con molto interesse il programma, devo dire. In apertura ho visto che avete parlato anche di ritmi circadiani, di orologi, di stagioni, molto molto interessante. Quindi io vorrei proprio agganciarmi a quello e parlarvi di uno studio pubblicato recentemente che ha permesso di calcolare orientativamente, proprio in base alla stagione e all'ora, la quantità di sole che ci permette di fare una buona scorta di vitamina D. E ricordiamolo, è quella vitamina che non solo è essenziale per le nostre ossa, ma anche un'azione antidepressiva, ci aiuta a attenuare lo stimolo di fame che in questo periodo che non è male, e agisce anche stimolando il nostro sistema immunitario, la salute dei nostri capelli, quindi non ne possiamo proprio fare a meno. Ebbene, appunto, in questo studio si calcola che da aprile ad ottobre, quindi siamo proprio nella perfetta stagionalità, passano anche 20 minuti di luce presi con 25% del corpo esposto, vale a dire t-shirt, pantaloncini corti, per metabolizzare quella vitamina D di cui abbiamo bisogno. E chiaramente l'orario più adatto è tra le 15 e le 17, soprattutto in primavera, perché il sole non è molto cocente, quindi possiamo evitare gli ritardi, possiamo prendere solo i benefici, ecco. Dottoressa Fulgioni, messaggio ricevuto. Il sole d'altronde bacia i belli e noi siamo bellissimi e rende non solo più bella la nostra pelle, ma in alcuni casi funziona proprio anche come una terapia, quindi non solo migliora l'aspetto, ma possiamo dire anche la salute della nostra pelle. Assolutamente vero, infatti come accennava proprio il professore Manfredini, anche in dermatologia l'azione del sole è a volte proprio terapeutica. Infatti ci sono alcune patologie, alcuni inestetismi cutanei, la psoriasi per nominarne qualcuna, la dermatite atopica, ma soprattutto la dermatite seborroica, quella fastidiosa forfora che molti insomma di noi conoscono, purtroppo nel periodo invernale è particolarmente aggressiva. Invece nella stagione estiva, quindi quando cominciano proprio queste belle giornate di sole, migliora e in alcuni casi riesce anche a regredire completamente, quindi proprio una vera e propria terapia. Però chiaramente anche chi non soffre di particolari problemi cutanei, ecco, si può approfittare di questo periodo in cui non abbiamo la fretta di abbronzarci, quindi non facciamo quei danni che magari negli anni scorsi abbiamo fatto di scottature solari, e evitare quindi rughe e tumori andando ad esporsi pian piano, regolarmente, pochi minuti al giorno, in base al fototipo, ecco. Ah, in base al fototipo. Dottoressa Fulgioni, avremo bisogno ancora di lei, per cui ci sentiremo presto. Intanto io devo chiudere. Devo salutare Peter Bescapé in regia e naturalmente Anita Panizza in assistenza, grazie anche ad Anita e a Laura Vanossi in redazione. Io vi aspetto domani, ma vi invito anche come sempre a fare un saltino sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove trovate tantissimi consigli dei nostri esperti. Impariamo addirittura a ballare. A domani!